Allora sono le 21.07 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia anche per oggi, mercoledì 3 aprile 2019, l'ennesimo appuntamento di prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa, poi ci sarà 25 o'clock che andrà a concludere il palinsesto odierno. www.ondarossa.info è il sito internet utile anche per il nostro streaming. 0649 1750 è il contatto telefonico, questo numero storico che ci siamo portati appresso ormai dal lontano 1977. Ricordo che questa radio sta intraprendendo il crowdfunding riguardante questa forma di radio abbonamento annuale, 30 euro per 1000 ascoltatori. Questo è il nostro obiettivo da perseguire entro il 24 maggio, se non sbaglio, come data. Quindi per chi fosse interessato va nel sito della radio stessa, clicca sul banner relativo a questa campagna e può scegliere anche la modalità che più gli si confà, compreso quello di arrivare qui in radio e portarlo tramite mano, e così ci si conosce anche. Salutiamo Maia dalla Sardegna, Fulvio Lo Biondo di Sorologia, Antonio Zoviet di Omicidio, Sandra da qui di Roma, Nicola Locci dalla Sardegna di Stigmate. Xenia qui da Roma, Giovanni Liso dalla Puglia, il medico della peste, non so se l'ho detto, ma male che vada lo ridico. Omonimo progetto qui di Roma. E noi cominciamo con un progetto italiano. Lui si chiama Daniele Bogon, l'abbiamo già apprezzato nelle scorse settimane, con questo 17 Chords, ossia la ristampa di un vecchio mini album dallo stesso nome, allargato e ampliato di molte molte tracce. Pianismo soffuso, ambient e rarefazioni, stile per esempio Biosphere, tanto per citare qualche nome che magari è più noto. Un disco che esce per la New Model Label, questa label di Ferrara, fondata da Govin Singh Kurana, altro amico di prove tecniche di trasmissione. E dopo aver salutato anche l'onnipresente Raffaele Pezzella in quel di Napoli, cominciamo con l'ascoltarci due tracce da questo 17 Chords, ossia Batman is Bruce Wayne e Ambient Number 4. Thank you, thank you, thank you. era Daniele Bogon da questo 17 Chords, questo album ristampato in versione allungata attraverso la New Model Label, questa interessantissima etichetta di Ferrara. Intanto salutiamo una new entry, Marianna, qui da Roma, e di nuovo Maya che ci sente dalla Sardegna, della quale è anche il compleanno. Un grosso abbraccio naturalmente al grande Gianluca Becuzzi, icona musicale da molti molti anni e del quale prossimamente avremo altre notizie musicali in tema di, diciamo, di spoken word. Intanto ci siamo goduti questo Daniele Bogon, questa nuova realtà che va ad unire, a sposare questo pianismo notturno insieme a delle atmosfere più soffuse e rarefatte che giustamente Antonio ci ha ricordato, e di paragonare a Biosphere, il Lappone Biosphere, come a Fennez, tanto per citare due grossi calibri. Salutiamo anche Lori credo che ci stia ascoltando dagli Stati Uniti, dagli USA dunque, Like Away, che qui da Roma, valente musicista, un saluto anche a lui. Allora, noi, come stiamo facendo da qualche settimana, ce ne andiamo anche in Polonia. La Polonia è una vera e propria fucina di talenti, e in questo caso noi siamo andati un po' a rivisitare il primo lavoro di Job Karma di Maciek Friat. Un album dove si esplicavano più che mai gli interessi verso un certo tipo di sperimentazione da parte di Job Karma, unito poi soprattutto dopo ad atmosfere neo-martial, per esempio alla In the Nursery, naturalmente il tutto con sotto un ottimo tappeto elettronico. Questo primo lavoro, Cycle per Second, di una ventina di anni fa, è composto anche da una succosa sezione live. Noi ci ascoltiamo invece il movimento numero 4, già che questo album non ha titoli. Job Karma. We'll be right back. ipnotici tappeti elettronici ideati da Job Karma. Job Karma di Masicki Friet e Aurelius Pisarkevski, 7 album al loro attivo, questo Cycles Per Second era il primo, un album autoprodotto. E siamo fermi a Society Suicide del 2014, quindi ormai sono 5 anni che Job Karma, diciamo, non compone nuovi lavori, quantomeno sulla lunga distanza. Fa eccezione un singolo dal nome Fundament Carbon del 2018. Dunque salutiamo di nuovo Marianna qui a Roma e noi si va avanti. Si va avanti e andiamo verso un pezzo di storia della scena industrial a partire dagli anni Ottanta. Sto parlando di Cosa i Fenni Tutti, che come tutti sapranno faceva parte dei meravigliosi Throbbing Gristle e spesso anche in coppia a Chris Carter, appunto in Chris e in Cosey. Per quanto riguarda invece la sua attività solista, in fondo ha prodotto soltanto 3 lavori, compreso questo Tutti, che porta quindi semplicemente il suo cognome. Album anche qui tra atmosfere elettroniche e altre più rarefatte e più immobili. Cominciamo con il conoscerlo, la prima traccia si chiama proprio Tutti, tanto per essere originali, e la terza invece Moe. Eccola qua, Cosa i Fenni Tutti. Salutiamo con ardore e contentezza il ritorno di Cose e Fenni Tutti con questo album che in maniera un po' salomonica si chiama proprio come il suo falso cognome Tutti. Il vero nome è Christine Carol Newby, sembra con un passato da porno star, almeno negli anni 70, tenendo conto che lei ormai è del 1951, quindi insomma abbastanza in là con l'età. Un album bello, devo dire bello, che alterna atmosfere elettroniche con quel meraviglioso sax iniziale, presumo anche coadiuvata da Chris Carter, a passaggi più ambient, come si suol dire, con sperimentazioni e scansioni elettroniche che mi hanno anche ricordato, per esempio, certe cose dei Coil di Love's Secret Domain, come l'ultima traccia Moe. Cose e Fenni Tutti, un nome dunque mutuato, a quanto sembra, sia da Mozart, che fece un'opera omonima, ma anche probabilmente, tenendo conto la sua iniziale attività, anche dai soft porno di scuola italiana, chissà. Cose e Fenni Tutti. Un ottimo lavoro in questo 2019. Tranquillamente posso dire uno dei migliori usciti in questo primo scampolo del nuovo anno. Conserva dunque la stessa Cose e Fenni Tutti, la stessa dose di ironia che ha contraddistinto molte delle cose fatte dai Throbbing Gristle in passato, insieme a Peter Christopherson, Genesis P. Orridge e lo stesso appunto Chris Carter. Sentite come prosegue, ma noi ce lo ascolteremo la prossima settimana. Due tracce possono bastare per questa sera. Torniamo in un certo senso anche qui a Roma attraverso l'Archaeological Records, etichetta di Giulio De Mauro, che ha avuto l'abilità di mettere insieme due personaggi, Andrew Lylis di Nars With The Wound insieme a Maniac, cantante dei Mayhem. Insieme formano e fanno questo Darkening Linclair, un ottimo lavoro sospeso tra IDM e sperimentazione a 360 gradi, e soprattutto l'arte e la perizia di Andrew Lylis viene mostrata attraverso le sue scomposizioni sonore che hanno riguardato soprattutto il vocione di Maniac. Questa sera è il turno di Soulburn. Soulburn was Thank you. Eccellente questo lavoro di scomposizione della voce di Mayhem, operato da Andrew Lylis, genio dei Nars With Wound di Steven Stapleton. Salutiamo Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta e qui da Roma Maria, anche lei ormai affezionata di questi spazi. Tornando a Darkening Lanclair, ripeto ancora una volta, un lavoro scaricabile in free download andando sul profilo Bandcamp dell'Archaeological Records di Giulio De Mauro, e lo consiglio di fare vivamente, già che l'album, anche questa è una delle migliori cose di questo 2019. Radio 1.53, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info per quanto riguarda l'ausilio dell'internet. Torniamo in Italia, un'altra vecchia conoscenza che risponde al nome di Carnera di Giovanni Lea Leonardi. Da menzionare l'uscita di questo EP dal nome Colpo di mano nella zona grigia, attraverso questa etichetta abbastanza sconosciuta che ho conosciuto tramite questa uscita, la She Lost Control, un disco che racchiude quattro, diciamo, originali e altri vari remix, tra le altre cose operati da Esplendor Geometrico e Ancient Methods, quindi abbastanza succoso. Queste sei tracce molto molto interessanti. La prima si chiama Francesca e parla di quel disprezzabile personaggio che è Francesca Mambro, ovviamente, della quale viene dato un quadro ancora più squallido in questo brano, che appunto porta il nome di Francesca. Ce lo andiamo ad ascoltare da Colpo di mano nella zona grigia. Delle famiglie che andavano a pagare delle bollette, oppure oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini. Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola? No. Non fossero le tasse da pagare? No, no, infatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza un'ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è della parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare. Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Román, se non sbaglio, l'associazione universitaria di Sì. E cosa l'aveva spinto? Ma a destra si arriva per spirito di tradizione, penso. Perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. E per simpatia, perché c'è una